Fra i fedeli che a Grand Court erano saliti sul mio vagone c'era Saniette, scacciato un tempo da casa Verdurin ad opera di suo cugino Forcheville, ma successivamente riammesso. Sotto il profilo della vita mondana, i suoi difetti erano originariamente, a dispetto di qualità superiori, un po' dello stesso genere di quelli di Cottard: timidezza, desiderio di piacere, tentativi infruttuosi di riuscirci. Ma mentre la vita, facendo rivestire a Cottard, se non in casa Verdurin, dove, per la suggestione che i momenti passati esercitano su di noi quando ci troviamo in un ambiente abituale, era rimasto in qualche misura lo stesso, perlomeno con la sua clientela, nel lavoro d'ospedale, all'Accademia di Medicina, aspetti esteriori di freddezza, di sprezzatura, di gravità, che s'accentuavano quando snocciolava davanti ad allievi compiacenti i suoi giochi di parole. Aveva scavato un'autentica frattura fra il nuovo e il vecchio Cottard, in Saniette. Al contrario, gli stessi difetti si erano ingigantiti a mano che si sforzava ad emendarsene. Sentendo che riusciva spesso noioso, che non gli si dava ascolto, anziché rallentare, come avrebbe fatto Cottard, e imporre l'attenzione con un piglio autorevole, non soltanto cercava di farsi perdonare con il tono scherzoso l'andamento troppo serio della sua conversazione, ma accelerava il discorso, semplificava, ricorreva ad abbreviazioni per sembrare meno prolisso, in maggior dimestichezza con gli argomenti di cui parlava, e riusciva soltanto, rendendoli incomprensibili, ad apparire interminabilmente verboso. Non aveva la sicurezza di Cottard, una sicurezza che gelava i suoi pazienti, i quali, a chi diceva quanto fosse amabile in società, rispondevano: «Non è più lo stesso uomo quando vi riceve nel suo studio, voi lì davanti e lui in controluce con quei suoi occhi penetranti». La sicurezza di Saniette non si imponeva, si sentiva che nascondeva troppa timidezza, che un niente sarebbe bastato a metterla in fuga. Il poveretto, che gli amici avevano sempre rimproverato perché si fidava troppo poco di se stesso e che vedeva in effetti persone da lui giustamente ritenute di livello assai inferiore aggiudicarsi con facilità i successi che gli sfuggivano, non cominciava più una storia senza sorridere della sua limpidezza, temendo che un'espressione seria non mettesse abbastanza in risalto il valore della mercanzia. A volte, facendo credito alla comicità che egli stesso sembrava trovare in quanto stava per dire, gli si accordava il favore d'un silenzio generale. Ma il racconto non faceva ridere nessuno. Un invitato benevolo concedeva qualche volta a Saniette l'incoraggiamento privato, quasi segreto, d'un sorriso d'approvazione, facendoglielo pervenire furtivamente, senza dare nell'occhio, come si fa scivolare un biglietto. Ma nessuno giungeva sino ad assumersi la responsabilità, ad arrischiare l'adesione pubblica d'una risata. Finita e caduta la storia, Saniette restava a lungo, desolato, a sorridere da solo a se stesso, come assaporandovi per proprio conto il diletto che fingeva di trovare sufficiente e che gli altri non avevano provato. Quanto allo scultore Ski, così chiamato a causa della difficoltà che si incontrava nel pronunciare il suo nome polacco, e perché lui stesso pretendeva, da quando viveva in un certo ambiente, di non voler essere confuso con dei parenti piuttosto ben messi ma un po' noiosi e molto numerosi, conservava ancora, con i suoi 45 anni e la sua notevole bruttezza, un che di fanciullesco, di fantasticamente sognante, che gli derivava dall'essere stato fino ai 10 anni il più affascinante enfant prodige del mondo, idolo di tutte le signore. Madame Verdurin sosteneva che era più artista di Elstir, col quale non aveva d'altronde che somiglianze puramente esteriori. Erano bastate perché Elstir, incontrato una volta Ski, concepisse per lui la profonda repulsione ispirataci, più ancora che dalle persone diametralmente opposte a noi, da coloro che ci assomigliano in peggio, nei quali risalta quello che abbiamo di meno buono, i difetti di cui ci siamo liberati, ricordandoci in maniera irritante ciò che qualcuno ha potuto vedere in noi prima che diventassimo ciò che siamo. Ma Madame Verdurin attribuiva più temperamento a lui che a Elstir, perché non c'era arte per la quale non avesse inclinazione, ed era persuasa che Schi l'avrebbe spinta questa inclinazione sino al talento se solo fosse stato meno pigro. La pigrizia appariva addirittura alla padrona come una dote supplementare, perché era il contrario del lavoro, secondo lei toccato in sorte agli essere privi di genio. Schi dipingeva qualsiasi cosa si volesse, su un paio di gemelli o in una sovrapporta. Cantava con voce da compositore e suonava a memoria, dando col pianoforte l'impressione dell'orchestra, non tanto per l'effetto del suo virtuosismo, quanto dei suoi bassi stonati, i quali esprimevano l'impotenza delle dita a indicare la presenza di una cornetta che del resto egli imitava con la bocca. Poiché conversando cercava le parole atte a suggerire un'impressione singolare, così come ritardava un accordo che poi batteva esclamando «popom» per far sentire gli ottoni, passava per meravigliosamente intelligente, ma le sue idee si riducevano in realtà a due o tre estremamente spicce. Stanco della sua reputazione di fantasista, s'era messo in testa di far vedere che era una persona pratica, positiva, donde in lui una trionfante affettazione di falsa esattezza, di falso buonsenso, aggravati da una totale mancanza di memoria e da informazioni sistematicamente imprecise. I movimenti che faceva con la testa, con il collo, con le gambe, sarebbero stati graziosi se avesse avuto ancora 9 anni, dei boccoli biondi, un collettone di pizzo e un paio di stivaletti di cuoio rosso. Arrivati in anticipo, lui, Cotard e Brichot, alla stazione di Grandcourt, avevano lasciato Brichot nella sala d'aspetto ed erano andati a fare un giro. A Cotard, che voleva tornare, Schi aveva replicato: «Ma non c'è nessuna fretta, non è il treno locale, oggi è il treno dipartimentale». Deliziato dall'impressione che questa sfumatura nell'esattezza aveva prodotto su Cotard, aggiunse parlando di sé: «E già, siccome Schi ama l'arte, siccome modella la creta, si pensa che non abbia spirito pratico. Nessuno conosce la linea meglio di me». Ciononostante, stavano tornando verso la stazione quando all'improvviso, scorgendo il fumo del trenino in arrivo, Cotard aveva lanciato un urlo: «Non ci resta che mettere le gambe in spalla!» In effetti, erano arrivati appena in tempo, giacché la distinzione fra treno locale e treno dipartimentale non era mai esistita se non nella mente di Schi. «Ma la principessa non è sul treno?» chiese con voce vibrante Brichot, i cui enormi occhiali, luccicanti come i riflettori che i laringoiatri si applicano sulla fronte per illuminare la gola dei loro pazienti, sembravano aver preso in prestito la vita dagli occhi del professore e, forse a causa dello sforzo che questi faceva per adattare ad essi la propria vista, davano l'impressione, anche nei momenti più insignificanti, di guardare autonomamente, con costante attenzione e straordinaria fissità. La malattia, d'altronde, sottraendogli a poco la vista, aveva rivelato a Brichot le bellezze di questo senso, così come tante volte bisogna decidersi a separarsi da un oggetto, a regalarlo, per esempio, per osservarlo, rimpiangerlo, ammirarlo. «No, no, la principessa è andata a riaccompagnare fino a Menville degli invitati di Madame Verdurin che tornavano a Parigi. Non è nemmeno da escludere che Madame Verdurin, che aveva da fare a Saint-Marc, sia andata con lei. In questo caso viaggerebbe con noi e faremmo la strada tutti insieme, sarebbe stupendo. Bisognerà stare attenti a Menville, ma attenti davvero. Non c'è che dire, c'è mancato un pelo che lo perdessimo il treno. Quando l'ho visto sono rimasto di sale. È quel che si chiama arrivare al momento topico. Ve lo immaginate se l'avessimo perso? Se Madame Verdurin avesse visto arrivare le carrozze senza di noi? Che scena!» aggiunse il dottore, che non si era ancora ripreso dall'emozione. «Una gita piuttosto insolita, no? E voi, Brichot? Che cosa ne dite, voi, della nostra scappatella?» chiese il dottore con una certa fierezza. «In fede mia», rispose Brichot, «se non aveste più trovato il treno, sarebbe stato proprio, come si sarebbe espresso il compianto Villemain, un gran brutto guaio per la banda. Ma io Distratto sin dal primo istante da quella gente che non conoscevo, ricordai di colpo quel che Cotard m'aveva detto nella sala da ballo del piccolo casinò. È come se un invisibile anello collegasse fra loro un organo e le immagini del ricordo. L'immagine di Albertine, che premeva i suoi seni contro quelli di André, mi faceva un tremendo male al cuore. Fu un male che non durò. L'idea che Albertine potesse avere delle relazioni con donne non mi sembrava più verosimile da 2 giorni, da quando le avances fatte da Albertine a Saint-Loup avevano eccitato in me una nuova gelosia che m'aveva cancellato dalla memoria la prima. Era la mia l'ingenuità di chi crede che una propensione ne escluda per forza un'altra. A Rambouville, poiché il treno era pieno zeppo, un fittavolo in camiciotto azzurro, munito di un semplice biglietto di terza, salì nel nostro scompartimento. Il dottore, ritenendo che non si potesse lasciar viaggiare la principessa accanto a costui, chiamò un addetto, esibì il suo tesserino di medico ad una grande compagnia ferroviaria e costrinse il capostazione a far scendere il fittavolo. Questa scena afflisse e mise a tal punto in crisi la timidezza di Sagnette che non appena ne vide l'inizio, temendo già, davanti alla folla di contadini ammassati sul marciapiede, che potesse sfociare in una rivolta, simulò un mal di pancia e, per evitare che lo si accusasse d'essere corresponsabile della violenza del dottore, infilò il corridoio fingendo di cercare quelli che Cotard chiamava i vater. Non trovandoli, contemplò il paesaggio dall'altra estremità del tortiglione. «Se questo è il vostro debutto in casa di Madame Verdurin», mi disse Brichot, che teneva a sfoggiare le proprie doti con un nuovo, «vedrete, signore, che non c'è ambiente dove si assapori meglio il dolce vivere». Come diceva uno degli inventori del dilettantismo, del menefreghismo, di molti ismi alla moda presso le snobbine, voglio dire, il signor principe di Talleyrand. Infatti, quando parlava dei grandi aristocratici del passato, Brichot trovava che fosse spiritoso e facesse epoca premettere al loro titolo la parola signore e diceva «il signor duca di La Rochefoucauld, il signor cardinale di Retz, che peraltro, di tanto in tanto, chiamava anche quello Struggle for Lifer di Gondi, quel boulangista di Marsillac». E non mancava mai, quando parlava di Montesquieu, di chiamarlo con un sorriso il signor presidente secondade Montesquieu. Un uomo di mondo un po' spiritoso avrebbe provato fastidio per tanta pedanteria che sapeva di scuola. Ma anche nei modi perfetti dell'uomo di mondo, quando parla d'un principe, c'è una pedanteria che tradisce un'altra casta e che consiste nel far precedere il nome Guglielmo da l'imperatore e nel rivolgersi a un'altezza con la terza persona. Di fronte a lui, riprese Brichot alludendo al signor principe di Talleyrand, tanto di cappello, è un antenato. È un ambiente delizioso, mi disse Cotard. Ci troverete un po' di tutto, perché Madame Verdurin non è esclusiva. Studiosi illustri come Brichot, alta nobiltà come per esempio la principessa Scherbatov, una gran dama russa, amica della granduchessa Eudossia, che la riceve addirittura a tu per tu, nelle ore in cui non è ammesso nessuno. In effetti, la granduchessa Eudossia, evitando con cura la presenza della principessa Scherbatov, che nessuno riceveva più da molto tempo, nelle ore in cui da lei poteva esserci altra gente, la faceva venire solo sul presto, in assenza degli amici per i quali incontrare la principessa sarebbe riuscito tanto sgradevole quanto sarebbe stato imbarazzante per lei. Poiché erano 3 anni che Madame Scherbatov, subito dopo aver lasciato, come una manicure, la casa della granduchessa, raggiungeva quella di Madame Verdurin, la quale s'era appena svegliata e non la lasciava più. Si può dire che la fedeltà della principessa superasse di gran lunga persino quella di Brichot, pur così assidua quei mercoledì dove, a Parigi, si compiaceva di credersi una specie di Chateaubriand alla Baillet au Bois, mentre in campagna aveva l'impressione di diventare all'incirca ciò che era potuto essere, in casa di Madame du Châtelet, colui che gli chiamava sempre con malizia e soddisfazione da letterato, il signor di Voltaire.